problème de money. J'sors la moto, j'ai le permis. Que ça se prend pour Tony, que ça trahit ses amis. T'as les dents mais moi aussi. Ne parle pas de mes homies. Alors ma race, moi j'suis lolly. Peaky Blinders comme Tommy. Dans la suite au Sophie. On a fait de la chambre un coffee. Moi j'aime pas ce qui profite. Ce qui font des poussettes en anonyme. T'as la boco, il me faut un dolly. Quand j'te dis que j't'aime pas, j'suis poli. Y'a de la peu d'alcoolie. Sans le parfum de Cali. Flip flap comme Ronnie. Il rêve de me voir à l'agonie. Y'a les épreuves, on est solide. J'crois en Dieu pour mon bolide. La L y la J en Marsellesa. El coche con papeles va a cruzar la ruta francesa. Parece que le duele, mora salió de la pobreza. Parece que le duele, solo familia en mi mesa. Otra locura más, otra fuga con el Tomás. Se filtran de mamás, eso es que se gana de más. Todo en un plis plas, galáctico con marcha atrás. Hago trayecto más, por culpa de romper todo el gas. Y qué locura, y qué tortura. La vida dura, a veces cruda. Nadie asegura que todo dura. Nadie asegura, solo el dinero. Edhe pse kom zi si kur tritola. Se jena ritme do me pistola. Po fokusimi te pa di foka. Po do kët si me mora na pola. Se jena ritme do pistola tola tola. Koko kom po tritola tola tola. Se jena ritme do pistola tola tola. Kom po tritola tola tola. Nuk jam tipi që rivet, rime do problema. Nuk jam tipi që flet, nuk jam si këta repera. Edhe kur jam koncert, me nëzim nuk pres, mu këtim poteka. Se di që kare po flet, kur nuk pëm tekst me tete dera. E din se nuk jam si këta, po mos o ka vete ke vret. O min tash në për Evropë, me truvica derin Marsej. Ala si lën me në timak, se jam aha, kur gjo so fake. Ala si lën me në timak, s'nuk kanë ndryshu. Italiano si la la la. Matto fufu sopra motardon. Pescatore con felpa di franchi. Chi dica festa sulla collana. Metto Juve seconda maglia. Kawasaki di seconda mano. Non ti darò una seconda chance. Tu hai fatto il figlio di puttana. Fanno LA, non necessario nella tip. Staridono anche se non hanno papà. Tutti i santi giorni in mezzo alla strada. Moto fare renda corsa Europa fino all'OVS. Toto la banca raccoglie messe sotto all'Audi o gli RS3. A Napoli le Ford diventano decapotabili. È un bebè con le tute economiche. Vedrai cosa fa, dagli qualche anè. Popoporo in zona non si fa niente di nuovo. Auto in strada fanno un concorso. Il quartiere è pericoloso. Italiano, a che fare con qualche mafioso. E da quando sono famoso tutti cercano di venirmi contro. Finisce la chissà. In zone con le Nissan giravano solo le plaquette. Oh baby, lei come una geisha. Lui samurai in Calen con le Tien. Gira coi batard. Edhe pse kom zi si kur tritola. Se jena ritme do me pistola. Fokusimi te pa di foka. Po do kët si me mora na pola. Se jena ritme do pistola tola tola. Compo tritola tola tola. Se jena ritme do pistola tola.